Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 20 ottobre, bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte, tra filo conduttore, diciamo, tra il carcere e la città. E io sono sempre Caterina, con Antonella Cortese alla conduzione di questo programma. Ciao Antonella. Ciao Caterina, ben ritrovati. E ovviamente siamo sempre in onda su Radio Città Fucico 103.1, l'EPIDA TV dalle 13 alle 14 in replica alle ore 17 e anche ovviamente Teletricolore canale 636 dalle ore 17 alle 18 e nel weekend con orari diversi. Antonella, per rimanere sulle nostre notizie del giorno, questa mattina ascoltavo in radio, in rassegna stampa di Radio 3, una notizia che riguarda la giustizia e in particolare i processi, e mi ha colpito questa notizia, non tanto per il dato in sé dei processi, che come sappiamo oramai è prassi, ma per l'età dell'accusato e il capo d'accusa per cui viene chiamato in tribunale. Siamo infatti in Germania e la notizia riguarda una persona di 100 anni, il cui nome per ora è segreto e che deve affrontare più di 3.000 accuse di complicità in omicidio davanti al tribunale tedesco per aver prestato assistenza durante fucilazioni ed esecuzioni con camere a gas. E infatti la notizia che leggo dal quotidiano La Repubblica, firma di Giampaolo Cadalanu, è la seguente: Germania ha processo un ex SS di 100 anni. Quindi Caterina, nonostante l'età, si tratta anche di un'accusa storicamente molto grave. Sì, stiamo parlando infatti degli anni della Seconda Guerra Mondiale e sembra che l'uomo abbia prestato servizio nel campo di Sachsenhausen tra il 1942 e il 1945. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe prestato assistenza durante fucilazioni ed esecuzioni con camera gas e inoltre, sempre stando all'accusa, l'anziano ex guardia nazista avrebbe servito in diverse compagnie delle SS, avrebbe ricevuto anche diverse promozioni fino ad arrivare alla carica di caporale con 4 soldati sotto i suoi ordini ai tempi in cui al comando del campo c'era il generale tedesco Hans Loritz. Oltretutto in quel periodo nel campo a nord di Berlino sono passati ben 200.000 deportati e di essi 20.000 sono stati uccisi. L'imputato avrebbe ottenuto una croce al merito di guerra per lo sterminio di prigionieri sovietici, dunque anche per verificare la responsabilità dell'ex guardia, scrive la stampa tedesca, potranno essere utilizzati anche i materiali dell'archivio storico. E Caterina, la domanda sorge spontanea: come si comporterà il tribunale di fronte a una persona con un'età così avanzata? Sollevi una bella domanda che è diventata anche oggetto di dibattito in questi giorni sulla stampa, perché se da un lato è vero che il reato è grave e rimane tale, è anche vero che la persona non è ormai la stessa di 70 anni fa. Per età e tanti fattori ovviamente di vita che ci scorre addosso. Quindi ci si chiede anche se sia eticamente giusto procedere con un processo per una persona così anziana. Ebbene, la Corte tedesca lo ha giudicato abbastanza idoneo per essere processato in questo mese di ottobre, anche se si riserva di limitare il numero di ore al giorno in cui ci sarà la sessione del tribunale. Dovrebbero bastare 2 giorni alla settimana per 2 ore e mezza. E ci sono buone probabilità che questo inoltre sia l'ultimo processo contro i nazionalsocialisti in vita. Ma in realtà, scrive uno dei settimanali di Amburgo, questo viene ribadito già da tempo per ogni processo di imputati, ovviamente sempre più anziani nel corso degli anni. Il primo è stato quello contro John Demjanjuk, scusate forse pronuncio male, alla sbarra nel 2011 per il suo ruolo nel lager di Sobibor. Poi è stato il caso di Oskar Gröning, che era il cosiddetto contabile di Auschwitz, condannato a 2 anni nel 2015. E poi ci sono stati altri 2 processi legati ai fatti di Auschwitz e a quelli del campo di concentramento di Stutthof vicino a Danzica. Ma per chiudere con una playlist dedicata in questo caso alla storia e alla storia passata, che tuttavia abbiamo veramente il compito di non dimenticare mai, Ivano Fossati, C'è tempo, e ci rivediamo tra pochissimo. È uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me, c'è un tempo d'aspetto, come dicevo. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Antonella, notizie internazionali, parliamo di sport e diritti, siamo in Francia. Sì, Caterina, siamo in Francia. Cartoon Dembélé gioca a calcio con il fratello maggiore e i suoi amici da quando aveva 6 anni, tra i complessi di case popolari in una banlieue di Parigi, in Francia. E da questi quartieri intanto sono usciti campioni molto famosi, Paul Pogba, Mbappé e anche N'Golo Kanté, ed è qui nel regno del calcio di strada che Dembélé si innamora di questo sport. Ora ha 19 anni, però ha perso un po' del suo ottimismo, non certo perché non abbia talento oppure perché si sia infortunata, ma a causa della politica, in quanto donna musulmana che indossa l'hijab, cioè il velo islamico. Dembélé non ha il permesso di giocare nella maggior parte delle gare sportive del paese, comprese quelle calcistiche. Infatti la Federazione Francese di Calcio, la FFF, vieta di indossare simboli religiosi evidenti, anche se nel 2014 la Federazione Internazionale di Calcio, quella che conosciamo tutti, la FIFA, ha tolto dal suo regolamento il divieto di portare l'hijab. E questa cosa accade forse perché la Francia ribadisce un suo principio ormai da sempre, ecco, di laicità? Il dibattito su ciò che le donne musulmane possono o non possono indossare è riemerso di recente in Francia, con la legge contro il separatismo religioso, che è entrata in vigore da poco, insomma il 24 agosto. I parlamentari hanno cercato di usare la norma per vietare formalmente il velo in tutte le competizioni sportive, anche se i legislatori ne avevano decretato l'incostituzionalità già il 9 giugno. Comunque la legge proposta nel 2020 dal governo dell'attuale presidente Emmanuel Macron punta a sconfiggere l'estremismo islamico e a rafforzare la laicità dello Stato, ma ovviamente è stata criticata per la prossimità alle politiche dell'estrema destra, in vista soprattutto delle elezioni del 2022, e per la stigmatizzazione dell'Islam e dei circa 6 milioni di musulmani che vivono in Francia. Tra l'altro è anche la comunità più numerosa d'Europa. Ma date queste premesse, no? E come farà una Francia con questo dibattito ora in corso a ospitare i Giochi Olimpici del 2024? E questa è la bella domanda che ci stiamo ponendo un po' tutti, perché la Francia è l'unico paese in Europa a escludere le donne che indossano l'hijab dalla maggior parte delle competizioni sportive nazionali. La legge però stabilisce che nelle gare internazionali, come appunto le Olimpiadi, le giocatrici straniere con il capo coperto possono giocare in Francia. Perciò in molti si chiedono perché il bersaglio di Parigi siano nello specifico le sue atlete musulmane con l'hijab, visto che quelle che vengono da fuori possono mettersi qualsiasi cosa. La Federazione Francese di Calcio sta ricevendo sempre più pressioni affinché modifichi le sue regole. Simbolo del movimento è il collettivo Les Hijabeuses, guidato sempre dalla nostra Dembélé ed altre giovani giocatrici dei dintorni della capitale che indossano ovviamente l'hijab. Il collettivo è stato fondato nel 2020 da un gruppo di ricercatrici e attiviste di Citizens Alliance, che si batte contro l'ingiustizia sociale in Francia. Oggi del gruppo Caterina fanno parte ben 150 persone, i follower su Instagram magari non sembrano tantissimi, comunque sono 5.000. E il 23 luglio il collettivo ha organizzato una protesta davanti alla sede della Federazione Francese e ha scritto diverse lettere al suo presidente, Noël Lagrette, chiedendo di interrompere l'esclusione delle donne musulmane, ma ancora ad oggi non hanno ricevuto risposta. Dichiara Dembélé: ci battiamo per un calcio più inclusivo, che integri tutte le donne. Stiamo cercando di far capire alle persone che siamo atlete e non dobbiamo essere escluse dal campo solo perché portiamo l'hijab. E una delle fondatrici, tra l'altro, Haifa Tilili, ha dichiarato che la posizione delle federazioni segue una tendenza molto diffusa in Francia in questo momento, e dove dagli anni 90 sono aumentati i discorsi a sfondo islamofobo. Il problema è che sono considerate degli oggetti, così dice Tlili, a proposito dell'impatto che le norme della FFF hanno sulle calciatrici musulmane. Le donne vogliono essere trattate come delle calciatrici. Mi piacerebbe vedere in TV una donna giocare a calcio con l'hijab, afferma ovviamente la nostra Dembélé. È frustrante non essere rappresentata nel calcio, e ha perfettamente ragione, che dire. Intanto noi continuiamo con la musica balcanica e con Goran Bregovic con la canzone Marushka del 2013. Kichi kichi kichi ale ale chichi di di di di la da da da hey kichi kichi kichi ale ale chichi di di di di la da da da teo chicha te tolpe di di di di la da da da hey changender mayu pre di di di di la da da da Maki, Mariana, Mariushka, Maria Rushka, Marushka. Maki, Maki, Maki, Maki, Mariana, Mariushka, Maria Rushka, Marushka. Bentornati a tutti i nostri amici ascoltatori sempre su Liberi Dentro Du Radio TV. Come ormai sapete da tante settimane, ho l'onore di avere Paolo Aleotti qui con me in redazione. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. È stato un bel periodo, ci siamo anche conosciuti, non ci conoscevamo prima. Io ho saputo, come gli ascoltatori, tante cose di te, come anche il fatto che oltre a essere giornalista di anche Teleradio Reporter, il laboratorio a Milano Bollate, che conduci da tanto tempo, anche giornalista per la RAI per tanti anni, e infatti hai fatto negli anni, dagli anni 90 al 2000, gli anni più belli probabilmente, sei stato corrispondente all'estero negli Stati Uniti. E allora io mi chiedevo come si è modificata la tua aspettativa in quegli anni. Che cos'è il sogno americano che noi, a cui noi pensiamo subito quando ci immaginiamo l'America e se esiste ancora? In effetti ho avuto proprio la fortuna di vivere, credo, tra i migliori 10 anni, il miglior decennio degli Stati Uniti e di New York da un po' di tempo a questa parte. Gli anni 90 sono stati gli anni della Renaissance, gli anni della new technology che si faceva strada, gli anni in cui Clinton quasi riusciva a fare il patto medio orientale tra Rabin ed Arafat. Gli anni in cui Giuliani riusciva a rimettere a posto New York. Quando io ero arrivato a New York, giravano film come I Guerrieri della Notte, ero terrorizzato, e invece lui riuscì con questa sua cosa del pugno di ferro, ma nel guanto di velluto, a ricreare New York. Giuliani, che adesso è un po' fuori, è andato un po' oltre, però in quel periodo fu veramente utile, ricreò delle cose. Insomma, era un periodo meraviglioso e si poteva veramente, c'era questa idea che tu potevi fare quello che volevi. Mi ricordo, io ho fondato un giornale in quegli anni perché era facile farlo, si chiamava New York Italia. Poi dovetti lasciarlo, ma perché avevo troppo da fare. Insomma, c'erano tante cose. E c'era questa sensazione che tu pensavi una cosa e potevi realizzarla. Questo fatto di poter contare sulle tue forze: più eri forte, più non ti ammalavi, più avevi skill, più avevi bravura e più andavi. E questa cosa pian piano però purtroppo si è un po' perduta. Io credo che il momento, calcolo che io ero arrivato anche lì pensando che l'America fosse un'America di individualisti, l'America colonialista, l'America col K che io odiavo, e invece poi ho scoperto che il vero lavoro di squadra si poteva fare lì. Credo che il giorno in cui crollò tutto è stato l'11 settembre 2001, quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle. Lì l'America ha proprio perso la sua innocenza, lì è scattato all'inizio una reazione bellissima. Mi ricordo New York, tutto sotto in silenzio, che reagiva però, non urlava, facevano le file tutti davanti agli ospedali per dare il sangue, bellissimo. E poi però la reazione di Bush Junior, e poi insieme all'Inghilterra, e poi insomma è lì che l'America ha perso l'innocenza, ha perso la capacità di avere una visione, o almeno l'ha un po' abbandonata. Non è bastato Obama a regargliela, e Trump ha dato una scossa finale. Oggi la visione dell'America che ho io è un po' meno, come dire, trionfante di quella di una volta. Paolo, come al solito ti chiedo di lanciare una canzone, siamo a metà della nostra chiacchierata e poi ritorniamo dopo sempre sugli Stati Uniti. E una canzone, ti direi quella di Billy Joel del New York State of Mind, che lui cantò, cioè canta, ha cantato spesso, ma cantò soprattutto ad ottobre del 2001 in un grandissimo concerto bellissimo fatto da grandi star mondiali, e in onore delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle. Direi che è la canzone più giusta in questo momento. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, have a flight to Miami Beach or Hollywood. Me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. But I know what I'm needing. wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. Was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take. New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons, left them all behind. I'm in a New York State. E rieccoci, bentornati, siamo sempre su Liberi Dentro con Paola Leotti e stiamo parlando degli Stati Uniti. Abbiamo parlato del sogno americano, un sogno che tu, Paolo, hai detto essersi un po' concluso con la data dell'11 settembre del 2000. Affievolito. Io non sono mai per le chiusure definitive. Speriamo infatti che non sia così, ma sono stati anni nei quali tu hai imparato davvero, eri già giornalista, ma hai dovuto imparare tantissime cose. Hai visitato 49 stati, visto i primi attentati, hai cercato di capire la moda, la borsa, il cinema, ma poi anche tutto l'aspetto sociale di questi paesi americani. E quindi, certo, sei stato pronto ad aprirti a tante cose, ma come si fa? Beh, come si fa? Si fa, New York è facile, non puoi prendere la macchina perché non ce la fai, vai a piedi, ti guardi intorno, stai con gli occhi aperti, le orecchie aperte, il cuore aperto, non giudichi, quella è la cosa più importante, non giudichi. Io avevo degli amici negli Stati Uniti a favore della pena di morte, volevo ucciderli con le mie mani, e però invece mi fermavo a capire come mai delle persone intelligenti, liberal, e quindi magari poi cominci a capire che nel loro DNA c'è qualcosa di diverso da quello che c'è nel mio DNA, quindi entrare più dentro la mentalità delle cose e delle persone, non fermarsi neanche a dire la mia passione è sempre stato il cinema, le cose sociali, però io stando lì dovevo parlare di tutto, di moda, dovevo parlare di sport, dovevo parlare, mamma mia, di Wall Street, di cui non capivo niente, economia, ecco. Aprirsi ed essere pronti a capire che non è che per forza devi fare sempre tutto quello che ti piace, ma devi fare tutte le cose con la più grande passione, forza e voglia di farle bene che hai. E quello è un paese che mi aiutava a farlo, dico la verità. Paolo, tra queste cose anche ovviamente il cinema e lo spettacolo. Ci sono degli episodi, hai conosciuto persone, anche personaggi molto famosi, attori, registi. Ci sono capitati degli episodi strani? È vero che ti sei scontrato una volta con Dustin Hoffman? Sì, scontrato con Dustin Hoffman. Allora dicevano che in qualche modo io gli assomigliassi, quando vedono Kramer contro Kramer mi chiamavano dicendo ti ho visto ieri sera al cinema, e un giorno dopo ci siamo scontrati, però ci siamo guardati come dire ma tu sei proprio tu, io sono proprio io, e ci siamo fatti un bel sorriso, e un'altra volta sempre con, per questo fatto un po' della somiglianza con Dustin Hoffman, intervistavo Robert De Niro e Billy Crystal insieme, e loro erano seduti, e come io sono messo seduto, Robert De Niro ha fatto a Billy Crystal: oh, hai visto, c'è Dustin con noi. E quindi poi ho intervistato 5 volte Woody Allen, poi ho intervistato, che ne so, Susan Sarandon, che, alla quale ho detto: lei lo sa che è la donna più sexy di Hollywood? E lei mi ha detto: sì, ma dice, sa perché lo sono davvero? Dico: no, perché? Perché il sesso è tutto qui nell'intelligenza, che io sono intelligente, no? Per dirne uno. O Brad Pitt, che quando gli ho fatto una domanda: ma è possibile che tu ti senti così sexy anche quando impersoni la morte? E lui mi ha detto, si è alzato, mi ha dato una pacca sulla spalla: solo un pazzo italiano mi poteva fare una domanda così assurda. E poi però si è messo a parlare con me. Paolo, hai citato prima il problema, diciamo, sulle questioni sociali, ovviamente ciò che riguarda anche la pena di morte negli Stati Uniti, e mi viene in mente, quindi viene subito l'aggancio con il carcere. E tu hai fatto visita anche a un grande penitenziario della California, San Quentin, nel quale i detenuti hanno prodotto uno tra i primi podcast, è vero? Sì, è vero, io quando sono andato, in effetti, questa idea, penso, era un po' già nell'aria, però non riuscivano ancora a realizzarla, e d'altra parte io sono stato pochissimo tempo, ero incuriosito da questo, il più grande carcere della California, quello 4.000 persone detenute, 1.000 nei bracci della morte, insomma era una cosa... E ho scoperto però solo dopo che in effetti uno degli esperimenti più interessanti di podcast è fatto proprio a San Quentin da 2 detenuti, un ex detenuto ed un artista visuale che fa un po' avanti e indietro. È un podcast bellissimo che vi consiglio di ascoltare, si chiama Ear Hustle, che significa rumore nell'orecchio in qualche modo, che è un modo di dire negli Stati Uniti, e che racconta attraverso la voce dei detenuti, le vite di altri detenuti e di quel grande carcere americano. E con questa sollecitazione ti ringrazio, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, anche chi ci ascolta oltre le mura, e ci rivediamo la prossima volta. Ancora un pezzo e ci rivediamo per i saluti. Arrivederci. Stessa gente che viene dentro, consuma, poi va, non lo so. Che faccio qui? Esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di epidemie al mare, gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino sempre. Rieccovi, bentornati, sempre per i saluti finali, dopo aver ascoltato il giornalista Paolo Aleotti del laboratorio Teleradio Reporter al carcere di Bollate a Milano. Continuiamo con le rubriche Equipe Sanitaria in replica, questa puntata, ma sempre bellissima, sul tema della tossicodipendenza. E ovviamente vi ricordiamo di scriverci, redazione liberidentro@gmail.com, se volete scriverci via mail, oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna, con intestazione a Liberi Dentro, se volete scriverci per posta. Grazie a tutti e a tutti, un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, e ovviamente dal nostro tecnico, che ringraziamo sempre, Enea Flacco. Ciao e a domani. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.